Sempre Radio Popolare, rimandati a settembre, prende quota. Roberto Caselli in studio, Paolo Magliocco e nostro ospite di questa sera, Carlo Alberto Redi, genetista. Ciao Carlo Alberto, ben arrivato. Ciao a tutti, grazie. Allora Paolo, una presentazione del nostro ospite, vai tu. Eh sì, oggi parliamo, oggi siamo rimandati in genetica e abbiamo invitato Carlo Alberto Redi, genetista dell'Università di Pavia, accademico dei Lincei, ottimo divulgatore. Beh, poi mi auguro. Anche di questo, speriamo che ci aiuti a capire, perché la genetica è scienza tutt'altro che facile, no? Che corre più che altro, galoppa. Sì, non c'è dubbio, tempi. Non c'è dubbio. E quindi bisogna tenersi aggiornati, ma anche recuperare un pochettino le nozioni di base. Non v'è dubbio, si viaggia in Ferrari, però è bene ricordare com'è fatta, ecco. Beh, certamente. Senti, io diedi l'esame di genetica nel 1974-75, non mi ricordo più, col professor Magni, che tu immagino... Proprio un must. Certo, si occupava molto di genetica dei vegetali, però è indubbiamente stata una grandissima figura. Credo che molti anche di quelli che ci ascoltano siano stati segnati da quell'insegnamento. Senti, cosa è cambiato da allora a oggi? Un sacco di roba, immagino. Sì, sì, sì. Diciamo che questi 40 anni dal tuo esame sicuramente sono stati fondamentali, hanno portato a delle conoscenze che forse non si riuscivano neppure ad immaginare all'epoca. E direi che oggi la genetica e in generale le scienze della vita segnano fortemente il nostro vivere sul pianeta. Questo non c'è dubbio, da come di fatto arriviamo sul pianeta, da come lo lasciamo, il fine vita, dal come ci curiamo, quello che mangiamo, tutte queste cose sono fondamentalmente segnate dalle conoscenze che la genetica ha portato in questi anni. C'è una data fondamentale, quella della decodifica del genoma umano. Possiamo porlo lì una sorta di spartiacque tra un prima e un dopo? Ma diciamo che l'intuizione di Renato D'Ulbecco è stata potente, perché diciamo il merito è tutto di Renato D'Ulbecco, quando propone all'Accademia Americana di mettere in campo veramente una quantità di denari notevoli per arrivare a leggere la sequenza. E qui è molto importante, perché ci sono degli errori continui anche sui media, eccetera. Non è il codice genetico che è stato decriptato, è la sequenza. Il codice genetico è universale e vale dai virus agli umani a tutti i viventi. Però si confonde, e questo porta a degli errori, l'uso così colloquiale di termini gergali, a degli errori fondamentali poi nelle decisioni politiche. Detto questo, sì, la conoscenza del genoma umano è stata potente come avanzamento per tutti i campi del sapere, dalla filosofia alle scienze giuridiche, alla sociologia, per tutte, ma per ovvi e evidenti motivi. In primis, ci ha detto che non esistono le razze. Direi che questo è uno dei temi che forse segnano di più il nostro vivere quotidiano, con le notizie anche che abbiamo sentito. Esatto. E le tragedie che accadono. Razza è un termine oggi assolutamente con un significato storico, ma che non ha alcuna evidenza, alcuna base scientifica. Esistono molte etnie, molti tipi diversi di culture, ma il genoma umano è uno. Questo bisognerebbe ribadirlo fortemente. Sì, bisognerebbe farlo capire. E da lì, effettivamente. E da lì molte altre implicazioni. Ad esempio, per gli scienziati è l'idea naif che abbiamo avuto. Perché l'idea, quando è partito il progetto del genoma, era: sequenziamo il genoma umano, troveremo i geni che fanno l'uomo, i geni che fanno il topo, i geni che fanno la scimmietta. Dopo il genoma umano abbiamo sequenziato una valanga di genomi e abbiamo scoperto, e qui io credo ci sia una spiritualità potente nel dato scientifico. Che c'è poca differenza tra gli uni. Siamo tutti fatti, certo, dal lievito all'uomo. I geni che compongono chi siamo sono quei, sì e no, 20.000, sempre uguali, sono quelli. siamo figli della polvere di stelle, forse bisognerà ricordarlo a questi ideologi. Come ci ha ricordato Bignami qualche trasmissione fa. E credo che Nanni, il professor Bignami, tra l'altro varrà la pena poi di ricordare che facciamo uno spettacolo insieme sulla cellula uovo. Fantastico, per cui, questo ne parleremo senz'altro. Ecco, varrebbe la pena. Però sì, l'intuizione è lì, la grande idea nasce con questa di D'Ulbecco, le ricadute sono immense e segnano come noi viviamo oggi. Se tu oggi puoi sapere anche poco di fisica, di chimica, l'Ottocento, la chimica, il secolo scorso la fisica. Oggi il bosone di Higgs è un atto di fede anche per un ateo come me, cioè lo sanno in due. Puoi comunque campare. Non puoi farlo se non hai un minimo di conoscenze degli elementi di genetica, della scienza e della vita. Ne va della tua cittadinanza. Cioè oggi la cittadinanza è segnata da una cittadinanza scientifica. Se in autonomia posso io decidere come ritengo che si possa venire al mondo, le genitorialità. Ancora dobbiamo spiegare che la genitorialità è un progetto piano, affettivo. Piano, troppe cose contemporaneamente. Non siamo in grado di... cioè come la massaia di Voghera, ecco. Massaia di Voghera. Ecco, per arrivare. Sì. Oggi deve conoscere un minimo di queste cose per potersi esprimere. E quindi è la democrazia che dobbiamo rivedere. Cioè non è più Jefferson, la dichiarazione degli Stati Uniti d'America, non è più la rivoluzione francese, è democrazia cognitiva. La rilevanza anche di trasmissioni come questa. Per far sapere, per far capire. Grazie. A ogni livello. Siamo onorati, grazie che ti piace l'idea, d'altra parte altrimenti non saresti qui. Certo. Comunque lo sapevo che saremmo arrivati alla diatriba tra fisica e biologia, tra fisica e genetica, no? Adesso qual è oggi la scienza da cui non si può prescindere? Io ho anche un conflitto di interessi notevole in quanto mio figlio è un fisico, ecco, e partecipa alle trasmissioni. Va bene. Senti, inframmezziamo un attimo con un po' di musica. Tu hai scelto cose, come dire, potenti. Partiamo addirittura con Beethoven, mi sembra, no? L'eroica. Addirittura l'eroica. Eccola qua. No, questa non era l'eroica. Eccola che arriva. Ci vuole un po' prima che si scaldi. Allora sfumiamo su Beethoven, insomma, ci permettiamo di fare queste cose. Va bene, ricordiamo sempre rimandati a settembre, Carlo Alberto Eredi, nostro ospite genetista. E allora, si dice molto spesso, no, che la qualità della vita è molto spesso dipendente sostanzialmente dal tuo patrimonio genetico, da quello che hai acquisito dalle tue generazioni, certo, precedenti, certo, e dalla fortuna probabilmente che hai avuto. Alla roulette, esatto, genetica. Che non ci siano state mutazioni gravi. Cosa vuol dire avere un patrimonio genetico forte, buono, fortunato? Beh, direi che è centrale, è uno degli aspetti fondamentali quello che tu stai ponendo, perché rimanda all'idea del determinismo genetico, che è devastante, è un'idea, un'ideologia che si connota con una profonda ignoranza biologica e una valenza ideologica razzista e estremamente proprio fascistoide, che è bene chiarire. Il determinismo genetico è un'invenzione, non esiste. Diciamo che anche la massaia di Voghera ci può arrivare banalmente. Se esistesse, sarebbe tutto ben più semplice trattare le malattie. Il determinismo genetico, perché sei bello, alto, intelligente, gay, voti a destra, voti a sinistra, è un'invenzione che salta fuori qui e là, perché poi ci sono anche casi di manipolazione dei dati per dimostrare un qualche cosa. Vedi il problema dei vaccini, no? Che vale, certo, la pena di accennare. Non esiste. Ci sono 2, 3, 4 casi di determinismo. Talassemia. Cioè hai difficoltà a contarle sulla punta delle dita di una mano, e lì si riesce a intervenire in un certo modo. Ma ad esempio tutte le malattie sono complesse, perché dipendono da centinaia di geni e dall'interazione di questi geni con l'ambiente, l'epigenetica. Certo. Quindi il discorso del determinismo genetico è falso. Fermo resta, questo è evidente, che la costituzione genetica nel suo complesso, come ti è assegnata dalla roulette genetica, perché non dimentichiamoci che stiamo parlando del fatto che ciascuno di noi salta fuori dal contributo di 2 porzioni di genoma, materno e paterno, che derivano da una ricombinazione genetica, cioè nel corso della formazione dello spermatozoo e della cellula uovo, il DNA, il genoma, con dei meccanismi singolari, col crossing over, rimescola i caratteri, tant'è che è evidente, noi non siamo la replica precisa dei nostri genitori. Certo. Ora, questo è un aspetto fondamentale, ad esempio molto equivocato da Habermas. Quando Habermas scrive i rischi della genetica liberale e discute con Schönborn, che è l'arcivescovo di Vienna, che è intimo e tutte le settimane discute con Ratzinger, noi dobbiamo essere molto attenti a questo, perché 1.400.000.000 sul pianeta sono cattolici, e tutti noi, cattolici o meno, dobbiamo capire cosa sta dicendo un papa, perché si rivolge a persone che vivono con noi, e dobbiamo spiegargli che non è come lui ha capito la genetica. Cioè, come si fa a dire a chi è stato meno fortunato nel riassortimento dei geni no, la tua condizione è questa, fine, stop. Il patrimonio genetico è un bene indisponibile se non ne va della relazione sociale. Non è in questi termini. Noi dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, la tecnologia, e dobbiamo far lavorare i giuristi, noi dobbiamo decidere le norme che ci dicano cosa impiegare di quella tale tecnologia, non evitarla, rifiutarla per il timore, perché così si escludono dei nostri simili. Questo deve essere un concetto molto chiaro per evitare le paure. Pensiamo agli OGM, pensiamo alla clonazione, pensiamo agli embrioni. Cioè sono tutti temi legati a un timore della tecnologia, che trova in molte linee filosofiche dei padri che insistono, no? C'è anche della verità ogni tanto, però, no? Non v'è dubbio, ma diventa un discorso di educazione all'uso buono di quella tecnologia. Ciascuno di noi ha in tasca uno di questi telefoni, sei agganciato a una rete che ti dice tantissime cose, ma c'è una quantità di spazzatura terribile. Educhiamo al buon uso, perché se no lasciamo delle persone fuori. Ci sono possibilità di trattare patologie oggi che non trattiamo il Parkinson, ci sono delle innovazioni potentissime che non possiamo applicare perché il prodotto che dovremmo impiegare deriva, ad esempio, da linee di cellule staminali embrionali. Ebbene, forse è il caso di discutere di queste cose, di non avere timore, cioè di azzerare il pregiudizio, che sia ideologico o religioso, sull'uso degli strumenti che noi oggi abbiamo. Ecco, questo è il concetto. Il problema è quello dell'informazione, ma dell'educazione. La sensazione è che sia anche un problema di complessità contro semplificazione. Cioè, la tendenza delle persone è a semplificare problemi complessi. Quello che tu ci stai dicendo è che in realtà si tratta di un problema estremamente complesso, in cui dubbio. Ci sono tante componenti che entrano in gioco, e quindi è inutile che continuiamo a dire c'è il gene di questo, c'è il gene di quello, come facciamo tante volte anche noi sui giornali, perché per esigenze di titolo hanno scoperto il gene, ma è quello che accennavo prima, anche il fatto appunto di confondere il codice con la sequenza. Esistono, ma se volessimo andare a un esame preciso, cioè all'esame, se tu chiedi che cos'è un gene, lo studente è in una difficoltà terribile a risponderti, perché non sappiamo neanche esattamente cosa sia un gene. C'è un escamotage che una è quello, sequenza di nucleotidi, che è quello di definirlo strutturalmente una sequenza di nucleotidi con dei bias terribili, o funzionalmente rispetto a una proteina che vediamo. Attenzione, ci sono stati già 3 premi Nobel che smentiscono esattamente questa definizione, perché strutturalmente la sequenza puoi averne un pezzettino a un certo livello del genoma e poi hai altri blocchi di questo gene molto lontano che possa... Entriamo un po' nello specifico. Allora, ogni gene fa una proteina, di solito si dice così, no? Un gene è quell'unità codifica per una proteina. Jacot e Monod, ai quali dobbiamo molto, sono un po' superati. Un gene e una proteina è un riferimento storico. Mentre invece appunto sappiamo che un gene fa molte cose diverse coordinandosi con altri geni, ed cioè uno, suona in un'orchestra. Sì, ed è uno di quei classici casi in cui dici: ma perché non ci ho pensato io e potevo andare io a Stoccolma, al Karolinska? Perché è sotto gli occhi di tutti, basta guardare le foglie di una pianta, basta guardare alcuni aspetti di questo tipo, ma le grandi intuizioni di questi 3 grandissimi sono state proprio queste. Ma tra l'altro bastava pensare al fatto che dal genoma, quando D'Ulbecco disse sequenziamo eccetera, emerse che 1,8% del genoma è gene proteina. Quindi c'era il 98% di DNA, di genoma, che venne definito ignorante, DNA ignorant, rubbish DNA. Tradotto ora, con spazzatura volgarmente, ma invece spazzatura non parte, è. Io, come molti altri, subito si disse: ma non può essere in questi termini, è la nostra ignoranza, avrà un ruolo. Ebbene, dopo pochi anni è saltato fuori che il ruolo ce l'ha, ed è quello proprio di modulare l'espressione della sequenza del DNA che viene riportata in un messaggero, in un RNA che fa da messaggero rispetto alla costruzione poi della proteina. Ebbene, tutto quel 98% è l'architetto che dice quei 20.000 geni, viene fuori il lievito, viene fuori l'uomo, viene fuori... Ora semplifico un poco, ma... È il DNA che modula quell'espressione, e oggi abbiamo delle applicazioni che sono già a portata di mano. Il tentativo di curare i tumori oggi con immunoterapia, con prodotti che derivino dalla modulazione, dal controllo di dell'espressione, perché una sequenza genica può portare alla produzione non di una proteina, di centinaia, di migliaia, con D'altra tutti parte, i problemi. Tu che studi embriologia, queste cose, quando si forma l'embrione e nasce un nuovo individuo, i geni fanno alcune cose, che ecco, poi però, smettono di farlo. Ma esatto, purtroppo a volte si riaccendono ed è il tumore. Cioè, anche questo concetto andrebbe chiarito molto, molto bene. È la relazione spazio-temporale di quei 20.000, tant'è che si dice... Il tumore è la prova in vivo tragica della riprogrammazione genetica che noi abbiamo imparato a fare con le tecniche per la clonazione. Cioè è tutto lì, sembra così semplice e uno dice: come ho fatto a non pensarci? Ma pensiamo al concetto della cellula tumorale. Negli ultimi 7-8 anni la visione è stata completamente ribaltata. Oggi sappiamo che il tumore è dovuto a una cellula staminale tumorale. Neoplastica, tumorale, che è clonogenica, non accetta segnali. Ma di come mai esiste questa cosa? Da un punto di vista evolutivo, che senso ha questa cosa? Certo, perché la domanda importante poi è sempre chiedersi in che termini. Beh, è molto semplice, c'è una macchina molto complessa che funziona, facciamo la metafora di una macchina, la macchina avanza, lo sviluppo, developmental biology, l'embriologia, dallo zigote, dalla cellula uovo più spermatozoo a un individuo. La differenziazione. È la macchina che corre nel tempo e quindi si arriva alla senescenza, eccetera. Certo. E quella macchina procede perché ha un acceleratore e un freno, ok? Se l'acceleratore e il freno in qualche modo vanno non più correttamente, è il tumore. Il tumore può partire perché si accelera la produzione di una cellula perché ha ricevuto dei segnali che l'hanno disturbata. Una, due, tre, quattro, cinque mutazioni. Mi espongo perché sono molto bella con la pelle scura, il melanoma, col buco dell'ozono. Oggi bisognerebbe dire alle ragazze: mettetevi una cremina e non prendete... A 50 di protezione. Esattamente. E può partire quindi quello che è il freno. Ho mutazioni che impediscono al freno di funzionare, o l'acceleratore che lo fanno andare a manetta. Quindi il senso del fatto che esista il tumore è una rottura di un equilibrio estremamente complesso, del quale dobbiamo restare affascinati, perché se, per santa pazienza, alla fine della fiera deve proprio accaderti, per tutta una serie di ragioni, di andare incontro a quelle 5-6 mutazioni che portano. Però è altrettanto vero che ci sono molti tumori sono anche ereditari, voglio dire. Come mai questa cosa? C'è una componente ereditaria, non v'è dubbio, che si sta chiarendo, dalla quale è necessario emergere per capire quali sono gli oncogeni che possono essere silenziati o meno, che vanno intorno a una componente ereditaria. Su questo non c'è dubbio, ma direi che la cosa più interessante sono quelli indotti da virus, per i quali abbiamo prodotto i vaccini e per i quali dovremmo chiedere che un sistema sanitario nazionale si faccia carico di vaccinare le ragazze per il tumore della cervice, per esempio. Perché ad esempio questo abbiamo capito, cosa che non pensavamo, che ci sono virus che portano al... E lì la domanda bellissima che tu fai è quella della relazione evolutiva, perché è lì il punto fondamentale di capire che queste relazioni sono di tipo evolutivo e l'equilibrio delicato è lì, dobbiamo proteggere questo equilibrio. Il discorso dell'epigenetica, dell'ambiente... Ci arriviamo anche all'epigenetica adesso. È lì, perché è quello che tu vai a toccare, non è tanto il fatto di avere una componente ereditaria, quello ti assegna una probabilità, non ti assegna un determinismo, non c'è, ti assegna una probabilità. Angelina Jolie, pensiamo all'effetto Angelina, lei dichiara in una lettera commovente sul New York Times le ragioni per le quali ha compiuto il fatto di fare mastectomia e isterectomia. Aveva già bimbi, ne adotta, eccetera. La mamma è morta di quello, la zia è morta di quello. Io conosco di avere la variante BRCA1, perdonatemi, il corpo è mio e faccio ciò. Ci sarebbe molto da discutere poi sull'uso mediatico. Andate in rete e trovate signore sorridenti che vi vengono incontro e che dicono: ma che problema c'è? Fai subito isterectomia e mastectomia, tanto puoi fare utero surrogato per una gestazione, il seno è ancora più bello. Cioè, quello con Carlo Alberto Redi non c'è il rischio di allontanarsi dai problemi concreti parlando di scienza. Ma neanche dalla radio, credo. Molto. È molto, molto interessante. Continuo. E questo è un aspetto, secondo me, che andrebbe chiarito molto. L'ambiente va rispettato. Cioè l'ambiente è il momento, ambiente nel senso più ampio del termine. Quindi alimentazione. Da quello che mangiamo... Ricorre da poco l'anniversario di Seveso, pochi giorni passati, quello che noi introduciamo quotidianamente nell'ambiente e che respiriamo, le barriere coralline che vanno scomparendo, cioè ecco, sono tutti aspetti di rispetto che noi dovremmo avere, ma per noi stessi, cioè sono gesti di tipo altruistico, rispettare l'ambiente, vaccinarsi, eccetera, che hanno uno sfondo egoistico, ma sacrosanto. Cioè, bisognerebbe insistere sul far capire questi aspetti. Non è che se tu oggi inquini o devasti o fai l'ecomafia... Sono problemi delle generazioni future, sono problemi nostri. Già nostri, questo è un elemento centrale. Pensiamo al trattato ora di libero scambio con gli States e tra le due coste dell'Atlantico. Ragazzi, pensiamo un attimo a che cosa però andremo a mangiare anche. Infatti. Cioè viene spontaneo, perché la Food and Drug Administration rispetto a noi ha altre regole, ci sono controlli altri limiti, completamente diversi, ad esempio sugli ormoni che rendono la carne così morbida. Decidiamo anche forse il caso di mangiare meno carne rossa. Qui mi piacerebbe lanciare una provocazione agli amici vegani. Non dimentichiamoci che si chiamano vegani, tutti che li chiamano vegani. Se si va al fumetto originale è vegani. E dico, ma tu il lo giorno... sapevi? No, neanche io. Eccola lì, va bene, ma il bello è di queste cose, io imparo altre cose. Voi. Ma il giorno in cui ci sarà l'hamburger fatto dalle staminali, per cui non ci sono animali di mezzo, non ci sono sofferenze, c'è una cellula della pelle, un fibroblasto preso e moltiplicato ad infinito per produrre hamburger. Loro li mangeranno? A me interessa molto la filosofia vegana, mi piacerebbe sapere se qualcuno ha piacere di rispondere o... Perché non c'è nulla dietro che faccia un minimo danno o un minimo sfruttamento sulla vita animale. Sarebbe interessante questo aspetto. Sarebbe interessante sapere quanti lo mangerebbero un hamburger prodotto così. È già venduto negli States, c'è già, quindi da noi arriverà entro brevissimo. Senti, mettiamo una pausa. Volentieri. Hai scelto un altro disco, perché come usiamo fare, lasciamo a voi la scelta. Bello. E siamo a che cosa in questo momento? Beh, se avete piacere, per me Nino D'Angelo. No, Je vous aime. Ah, Femme Je vous aime, che per me è un must, perché è Leclerc, è il Giulio, insomma, è fantastico Julien. Ce lo sentiamo. Si douce quand la vie me touche comme nous tous, alors si douce. Que blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Quelquefois si drôle sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul. Parfois, elle le vole. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Ah, Stiamo scoprendo il lato romantico di Carlo Alberto Redi. Femme, je vous aime. Ma più che romantico, cioè, devo precisare, è perché questa è una canzone che io a lezione, io faccio lezione per Developmental Biology nella laurea in lingua inglese di Molecular Biology and Genetics all'ultimo anno. Quindi sono ragazzi che sono al quint'anno, stanno per diventare dottori, eccetera. E parlo loro di embriologia, fondamentalmente delle basi genetiche dello sviluppo, e io devo dare a loro delle indicazioni precise anche in termini cognitivi, che gli rimanga in testa quello che dico. Non posso fare tutta l'ora di lezione o le due a fila, e allora dico loro anche come associare, poiché arriviamo sempre al punto di dover spiegare che il sesso maschile è un sesso accessorio inventato qui e là dall'evoluzione nella riproduzione sessuata, ma che non è necessario alla riproduzione sessuata, perché le femmine ricombinano geneticamente tranquillamente da sole, partenogenesi. Ci sono 3 sessi, 4 sessi, 5, 6, 7, 13. Nei parameci ci sono 13 sessi. Sesso significa... Nell'uomo un po' meno. No, però non bisogna antropomorfizzare. Cioè, sesso significa ricombinare geneticamente, non significa quello che si pensa, che esistono i maschietti e le femminucce. E questo ha delle ricadute potentissime, perché vedi i maschi che incominciano preoccupati a guardarti con gli occhi sgranati, le femmine che incominciano a sorridere. E però bisognerebbe spiegarlo ai nostri decisori politici, cioè ai vari soggetti che si dichiarano contro le omogenitorialità, contro il sindaco di Venezia che vieta il libro bellissimo illustrato da Altan della parodia, cioè assurdo, occupati delle grandi navi che entrano e distruggono e perderemo anche la Venezia come patrimonio dell'umanità. La genetica ti dice che si può essere genitori tranquillamente, abbiamo interi taxa in ambito zoologico, cioè non sto dicendo specie, genere, sì, famiglia, sì, ordine, classe, molto più su, esatto, in cui c'è riproduzione sessuata e non abbiamo mai trovato un maschio. È un'eccezione il fatto di avere la riproduzione sessuata con i maschi, e questo andrebbe spiegato molto bene. E quindi bisogna amare le donne, come dice e allora canzone. Julien qui è un tributo al femminile potentissimo. L'8 di marzo io suggerisco sempre ai maschietti, i fiori dovete mandarli dopo, perché essendo a fecondazione interna la nostra specie, le femmine sono discriminative, come tutte le femmine nella inseminazione interna, no? Anche una mosca. Non lo è la specie in cui il maschio fa una spermateca, la lascia lì e se ne va. La femmina poi la sceglie. Il problema è importante, e dico, e dovete far sentire come colonna musicale, mentre invitate a una cena una dolce compagna, oggi bisogna dire significant other, perché dolce compagna mi è stato rimproverato, S.O., significant other. Fate ascoltare questa canzone magnifica, perché è splendida come tributo al femminile. un inno al femminile. Quanto è scientifico amare le donne. Cioè... Sì, ma certo, è uno degli aspetti più belli e dolci. Sì, certo che addentrandosi nella genetica, come dire, un sacco di convinzioni cadono, sì, indubbiamente. Sì, no? Sì, sì. Io credo proprio che oggi sia un elemento di potente conoscenza. Con Carlo Sini e Florinda Cambria abbiamo fatto 5-6 incontri tra filosofi e con l'aiuto di Manuela Monti, che è la contrattista al San Matteo di Pavia e che è stata tanto negli States, poi a Cambridge, al Gurdon Institute, e che è la coautrice del libro che abbiamo scritto su questa cellula meravigliosa che è l'uovo, sempre al femminile. Abbiamo fatto degli incontri con i filosofi proprio spiegando che cos'è oggi genetica, e abbiamo fatto uguaglianza, disuguaglianza, perché non dimentichiamoci che oggi su un autobus ci possono stare i signori che sul pianeta Terra detengono il 99% della ricchezza. Questo è un aspetto, gli altri sono quelli che stanno fuori, dei 7 miliardi che sono sul pianeta. Poi abbiamo fatto naturale e artificiale come dibattito, poi abbiamo fatto sessuato-assessuato, inevitabilmente, insomma, tutta una serie di temi piuttosto di rilievo, ma che connotano la genetica oggi nel nostro vivere. E sono questi i temi del nostro vivere, non c'è bisogno di pensare uguaglianze e disuguaglianze proiettato su grandi temi, basta pensarlo sulla salute. Abbiamo avuto un'assegnazione da questo governo di 800 milioni, ce ne vorrebbero 3 miliardi e mezzo per mantenere i LEA, i livelli essenziali di assistenza, e questo la dice lunga. Ormai si cura chi può, bisogna spiegarlo, bisogna dirlo, anche nel modello così vantato della regione Lombardia, è evidente a tutti. La genetica è quello che accade oggi a noi. Diciamo che nella proiezione temporale, cioè a partire dal fuoco, la ruota, sì, forse poi l'altro grande segno può essere stato l'Apple o lo smartphone o il Samsung che abbiamo in tasca, che è però ormai genetica. Cioè i big dell'economia non sono dell'elettronica, sono in realtà di queste tecnologie unite, e sono quelle della genetica. Amazon, Apple, Microsoft non stanno investendo nel smartphone che abbiamo in tasca, stanno investendo sulla nostra salute con quegli elementi, cioè hanno già investito miliardi. Barack Obama ha investito 258 milioni dando un'indicazione un sabato sera sulla medicina di precisione, che deve essere una medicina basata naturalmente sulla costituzione genetica di ciascuno di noi, per cui ormai fare il nostro genoma costa sì e no 1.000 euro, scenderà ancora, e ciascuno di noi prenderà delle pastiglie come un farmaco misurato sul nostro bisogno e non su quello di una popolazione. Ora, questi big in realtà hanno già investito miliardi, perché ciascuno di noi deve fornire quel dato che sarà utile alla medicina di precisione. Cioè si è già capito dove va, e quindi vedete che anche la genetica è legata a queste cose. L'internet of things, l'internet delle cose. È l'internet delle cose per cui il mio frigo è collegato al mio Apple, al mio la macchina, la scrivania, il cuscino dove dormo. L'internet of things è questo, ci sta dicendo, che è la genetica sottesa che fa la differenza. Senti, tu hai parlato prima di questo rapporto tra scienza e filosofia con Carlo Sini, che è un filosofo, come dire, che è molto bravo anche a fare queste contaminazioni, sì, e questi passaggi da una cosa all'altra. Un altro però so che è stato molto importante per te, hai lavorato molto su questo, e cioè il dialogo tra scienza e diritto. Sì. Perché? Sì, sì, in effetti... Questo è un aspetto che ringrazio che tu ricordi ora. Direi che è un po' inevitabile, evidente. Cioè, noi viviamo in un contesto sociale, c'è un'architettura di relazioni per le quali vengono sviluppate delle norme e dobbiamo seguirle, poi ci saranno dei magistrati che le devono far applicare. Ora, se a fronte di questa rivoluzione incredibile, come tu hai ricordato all'inizio, che la genetica mette in campo nel nuovo millennio, perché non avremo più il secolo della fisica o il secolo della chimica, avremo il millennio delle scienze della vita, per quello della che ho biologia, brevemente certo. accennato. E noi abbiamo bisogno di dialogare proprio con i testimoni speciali della società. I testimoni speciali e come va della questo società dialogo? Siete voi, perché siete coloro che comunicano e sono gli uomini del diritto. E questo dialogo non è facile. Non è facile perché i linguaggi sono molto diversi, i tempi sono molto diversi dell'elaborazione intellettuale. Noi viaggiamo su una Ferrari, l'uomo del diritto su una 500 che arranca per riuscire a seguire, ed è lì il discorso della democrazia. Leggi in Italia non seguono un granché. Ed è lì il discorso della democrazia che accennavo all'inizio. Due esempi. Facciamoli. Cameron ora se n'è andato, amen, non mi è mai piaciuto, Blair neanche, e posso esprimere il mio giudizio e dirlo così, però devo riconoscere loro dei meriti. Loro dei meriti molto precisi. Parto da Blair. Una discussione che va avanti per alcuni mesi su come suonare il corno in un certo momento della caccia alla volpe con i cani. Le lobby dei pazienti che si mettono fuori dal Parlamento, l'House of Commons, e dicono: ok, se entro una settimana non date la disciplina che regola l'impiego delle staminali embrionali, non vi votiamo più. Nel giro di una settimana è stato fatto. Prendo l'ultimo esempio con Cameron. Le authority, non come l'Accademia dei Lincei che tanto lavora e produce e i documenti vanno in un cassetto e i decisori politici difficilmente ascoltano, la Royal Society, qualunque documento faccia, non c'è membro del Parlamento che non ne tenga conto. Ok, si dice: guardate, possiamo eliminare tutte le patologie mitocondriali dai bimbi che nascono con queste patologie e nel giro di 3-4 anni mitocondriali sono... cioè del DNA dei mitocondri, sì, che sono piccole una parte particelle della che stanno sì. nella cellula e okay. che producono energia, che nulla hanno a che fare con la costituzione genetica, con il genoma del nucleo, diciamo. Papà e mamma che contribuiscono. Allora perché impedire che due amiche, senza che ci sia danaro di mezzo, si scambiano le cellule uovo? Cioè un'amica che sa di avere i mitocondri che portano alcune mutazioni che porteranno a quelle patologie che sono patologie muscolari, neurologiche, si fa regalare dall'amica delle cellule uovo. Con le tecniche di chirurgia cellulare si trasferisce il nucleo della futura mamma che ha i mitocondri alterati nell'uovo a cui è stato tolto il DNA dell'amica. Cioè si ricostituisce una cellula uovo con mitocondri sani. Si fa una spiegazione, si spende qualche milione di sterline per andare nei luoghi pubblici, scuole, eccetera, e spiegare che c'è questa opportunità. Si fa una consultazione, non come la Brexit, tragica. Si sa che la maggioranza dei cittadini è d'accordo, viene fatta la legge. Ora io mi chiedo sì, perché... Il problema è che te la devi vedere con una serie di pregiudizi su questi campi che non sono dubbio, facili. Non v'è dubbio, ma l'arretratezza del paese si misura lì. Sì, assolutamente. Legge 40. Qualcuno ecco. è in grado di spiegarmi certo, perché certo. la signora fertile può fare ragionevolmente per affari propri un'eterologa perché si è stufata del marito che va allo stadio e in qualche modo ha per sua... L'adulterio non è un delitto, è liberissima di farlo, e la signora invece che ha problemi con il marito, cioè non può usare lo spermatozoo di un'altra persona. Cioè ci sono delle incoerenze. Cioè io non leggo bene, non posso portare gli occhiali. Tu leggi bene, se vuoi prenditi anche gli occhiali. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè qui è un livello... È però un problema anche di democrazia. C'è stato certo. un referendum in Italia sulla certo, legge sulla fecondazione ma, assistita. C'è stata una scelta, ai noi. Sì, ma il problema è l'informazione, come ma sempre. Ma anche lì va precisato che è stato uno degli elementi, dei momenti più negativi della storia di questo paese. Certo. Cioè una quantità di persone che si sono rese aliene ai problemi di propri concittadini. Perché? Tu hai un problema e io me ne infischio e ti dico chi se ne importa. E poi qual faccio... è la tua opinione? Perché? Ma perché c'è una arretratezza culturale. Questo è il punto. Sì. Cioè c'è una arretratezza di conoscenza, di strumenti. Questo è un paese, come ricordava Eco in una delle ultime riunioni ai Lincei, quando è uscito il rapporto OCSE, dove il 33% dei giovani non intende l'italiano narrativo o argomentativo. Tenetemi calmo, per favore. Cioè significa che non sono in grado di leggere una pagina di un giornale e capirla. 33%, se scomponete il dato, i nervi lisci, quelli che non si controllano sotto il bulbo pilifero, orripilano. Cioè ti fa male, il bulbo pilifero si irrita come quando un gorilla deve in qualche modo. Uno degli ultimi libri di Carlo Alberto Redi, non so se sia l'ultimo, si intitola Il biologo furioso. Non è l'ultimo, ma ci tengo molto. Non è l'ultimo, però nessuno che ascolta questa trasmissione avrà dei dubbi a pensare che Carlo Alberto Redi sa essere anche furioso quando vuole su certe cose. Sì, il biologo furioso sì. Manteniamo la calma, andiamo a sentirci un altro pezzo. Suggerirei, perché è legato a questi aspetti, Nino D'Angelo. Eccolo qua, senza eccolo. Questa ce la spieghi. Sì, questa è la mia colonna sonora. Spiegaci. L'ascensore sociale. L'ascensore sociale oggi non è vero che non funziona, funziona. Il peccato è che funziona solo in discesa. Se nasci figlio del Netturbino da qualche parte... di Voghera, appunto. Ecco, resti tale, non c'è più. Io sono l'esempio. Mia mamma, quando sono arrivato, mi ha detto si va a lavorare, non c'è chance. Ho avuto l'opportunità di vincere un posto nel collegio Ghisieri, di non avere un centesimo in tasca, ma di essere servito coi guanti bianchi e di mangiare con le posate d'argento con tutti i libri che desideravo, senza giacca e cravatta. No. No, oggi funziona in discesa e quindi bisognerebbe parlarne. Questa è la colonna sonora. Passagli sta fortuna, mezza gente distratti, io non ero nessuno. Quanta notte c'è data, per scalare il lume, mezza figlio scordata, ci ha pisa paura. Giacca e cravatta, così sono venuto. Miezze facce importanti, canne toccata l'uno. Guardare ogni tanto per capire a tuo soggiù. Yeah. Va bene, Nino D'Angelo come scelta di Carlo Alberto Redi. Carlo Alberto, adesso tu hai ancora 3 o 4 minuti per spiegarci che cos'è questo progetto che avete in mente sulla cellula uovo. Sì. Beh, abbiamo scritto con Manuela Monti questa storia di una cellula fantastica, cioè la cellula uovo per Sironi Editore. E perché vogliamo parlare agli adulti e ai bimbi di questa meravigliosa cellula, perché è l'icona, la base di tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Per cui nel libro, divertentissimo, c'è dentro tutto questo, dalla ludolinguistica della cellula uovo alla genetica della cellula uovo, alle applicazioni, a tutto ciò che si può fare. Dobbiamo dirlo agli adulti, che se vogliono si acquistano il libro, ma parlare ai bimbi. E siamo riusciti con l'associazione Pinxis, la balena rosa, a farlo al Teatro dell'Elfo a Milano, in sala Shakespeare, e i bimbi erano entusiasti. Ora lo porteremo al Festival di Sarzana, proprio perché dobbiamo investire sui giovani. Il declino del paese, con tutto quello che abbiamo detto, lo fermiamo se investiamo. Ritornerete a Milano? Io spero proprio di sì. Intanto parliamo diamo gli estremi giusti del libro. È storia di una cellula fantastica, la cellula uovo, Redi, Monti, Sironi Editore, e vi divertirete. Senti, una cosa non abbiamo citato, non c'è il tempo di parlarne a questo punto, però dobbiamo perlomeno dire la parola, tu l'hai citata prima en passant, l'epigenetica, sì. Cioè la nuova frontiera, non è più sì. Soltanto la genetica come studio del genoma, come sequenza, ma come epigenetica. Che cosa significa? Ce lo dici in un minuto. Significa che non c'è solo il discorso del codice genetico e della sequenza nuda e cruda del DNA, ma ci sono altri codici, dei codici istonici, dei codici che sono quello per cui il DNA interagisce con l'ambiente, delle modificazioni temporanee sulla espressione di queste sequenze che vengono cancellate ogni volta nel formare lo spermatozoo, nel formare l'uovo, e reimpiantate successivamente per modulare in maniera molto fine e articolata l'espressione dei geni. Sicuramente ci vorrebbe una lezione intera, ma sì. Probabilmente Marco Ferraguti riuscirà. Epigenetica si può dire è il genoma quando è in azione, insomma, è vedere il film in movimento anziché la fotografia. Sì, con tutte le interazioni possibili e immaginabili tra i costituenti, che sono gli acidi nucleici, le proteine e tutto quello che sono le modificazioni e i meccanismi, le architetture che mettono in campo il toccarsi, il sentirsi tra l'ambiente e la costituzione genetica. Attenzione, resta Charles Darwin e tutto quello che conosciamo dei paradigmi di zio Charles non è tornare a Lamarck, che pure è stato un grandissimo zoologo. E ce n'è di strada da fare, insomma, sulla genetica. Senti, è stata una lezione bellissima, ti ringraziamo tantissimo. Grazie a tutti voi. Redi. Grazie veramente. Termina qui questa puntata di Rimandati a settembre. Mai puntata fu più facile, perché Carlo Alberto Redi fa tutto da solo. Assolutamente. Grazie a voi. Chiudiamo con un altro tuo, un'altra tua desiderata dal punto di vista musicale. Volentieri. Eccola qua. Bene. Allora, Paolo Magliocco e Roberto Caselli vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata, in cui parleremo di evoluzione, forse, o di robotica e di tante altre cose ancora. Eccoci qua. E no, Marco, qui devi andare tu con l'epigenetica.